Ave Maria, ragazzi e ragazze carissimi, mi scuso che c'è stato qualche piccolo problema di connessione precedentemente, spero che adesso tutto funzioni bene e possiate anche sentire me bene. Stavo accennando, prima che me cadesse la linea, che continuiamo oggi il discorso sul sesto comandamento, in particolare sui peccati che minano alla radice la santità del matrimonio. E come avevo preannunciato nella puntata precedente, volevo oggi, ahimè, anche se sono un pochino datate queste stime perché si riferiscono a qualche tempo fa, comunque danno una serie, diciamo, di numeri abbastanza preoccupanti e inquietanti relativi alla crisi dei matrimoni dovuti non soltanto ai divorzi, ma anche a un'altra grande piaga che sta drammaticamente dilagando, che sono le unioni civili, le libere convivenze, le convivenze al di fuori del matrimonio, che creano similmente non poche difficoltà e non pochi problemi, non pochi danni sia all'istituto del matrimonio che alla stabilità della famiglia. Scusate le mie ancora non perfette condizioni fisiche. Allora, io qualche tempo fa, studiando questo argomento, ho fatto un'indagine, quindi sono andato a speculare qua e là in giro, in riviste specializzate o in rete, per rendermi a conto anche come sacerdote, del grado di preoccupazione che bisogna avere dinanzi alla crisi matrimoniale. Io vi leggo alcuni numeri che potete tranquillamente andare a riscontrare e tenete presente che questi numeri ancora non sono aggiornati alla luce del censimento del 2011, che ahimè presumibilmente avrà segnato un ulteriore peggioramento rispetto alle cifre già allarmanti che sto per dirvi. Allora, numero 1, percentuale dei matrimoni religiosi e percentuale dei matrimoni civili. Nel 2009 sono stati celebrati 144.384 matrimoni religiosi e 86.475 civili. Vuol dire che più di un matrimonio su tre, tra quelli celebrati, più di un matrimonio su tre, non proprio uno su due perché le cifre sono ancora lontane, ma più di uno su tre sono stati celebrati soltanto al comune. Sono tanti, non sono pochi. Poi nel 2008 lo stesso furono celebrati 156.000 circa matrimoni religiosi e circa 90.000 civili. Quindi la cifra è attendibile perché è confermata da un paio di anni di rilevazioni, quindi si tratta di un tasso tendenziale. Quindi un matrimonio su tre, diamo questa cifra arrotondata per difetto, viene celebrato davanti al sindaco e non davanti al ministro di Dio. Stiamo parlando di dati italiani, chiaramente, quindi per ora viviamo in Italia, siamo preoccupati della nostra bella Italia. In alcune regioni, specialmente, non me ne vogliono gli ascoltatori che ci sentono via internet da quelle parti d'Italia. Quindi in diverse regioni del nord Italia, nel 2009, i matrimoni civili hanno superato quelli religiosi. Si tratta del Friuli Venezia Giulia, il Trentino Alto Adige, Toscana, Emilia Romagna e Liguria. Mentre nel centro, pur prevalendo ancora i matrimoni religiosi, le cifre sono abbastanza vicine, siamo quasi pari, 24.000 circa religiosi contro 19.000 circa civili. Quindi vuol dire che siamo quasi. È grazie al sud d'Italia che la percentuale si mantiene ancora alta, questo dobbiamo subito dirlo, in linea con il dato generale in base al quale la fede e la vita di fede continua a sopravvivere discretamente più al sud Italia che al nord. Ora, attenzione che in base a quanto si è potuto verificare, le libere convivenze nel 2007 si attestavano ad una percentuale di circa il 12,5%. Ma se si fa attenzione, Il numero dei matrimoni è in netto calo, il che significa che le libere convivenze sono parimenti in aumento tendenziale. Adesso non vorrei dire sciocchezze, perché non ho dati freschi, però se nel 2007 la cifra era il 12,5, io non mi stupirei affatto se fossimo arrivati al circa il 20%, anche perché almeno dalle nostre parti qui di convivenze se ne sentono a bizzeffe. E i matrimoni continuano ad essere in calo, in calo, in calo. E la convivenza, la libera convivenza, la cosiddetta unione civile, sta diventando assolutamente un fatto considerato normale. Ora, fatto che normale non è affatto, ecco, perdonatemi il gioco di parole, fatto che normale non è affatto, né il fatto che sia ampiamente diffuso a livello sociale consente una sua tolleranza da un punto di vista religioso. La libera convivenza è un fatto gravissimo davanti a Dio, per diversi ordini di motivi. Il primo, rappresentando un vero e proprio pubblico scandalo. Scandalo vuol dire, non so, forse è meglio che ripassiamo la differenza tra peccato e scandalo. Il peccato è un'offesa a Dio fatta trasgredendo la sua legge, ma fatta in privato. Cioè, se io sto in camera mia e mi prendo uno staccato di rabbia e quando sto da solo bestemmio, ho fatto un peccato gravissimo, ho fatto un peccato mortale, ma di quel peccato sono a conoscenza io, il Padre Eterno che mi ha sentito, il mio angelo custode, e basta se sono da solo in casa. Ecco, se io bestemmio davanti a mio figlio piccolo, quel peccato diventa un pubblico scandalo perché mio figlio sente questa cosa qui. E se vedere il padre o sentire il padre bestemmiare rappresenta un pessimo esempio diseducativo. Quindi lo scandalo non è altro che un peccato commesso in pubblico, senza nessuna remora. La convivenza appartiene a questo genere perché, mentre, come approfondiremo nei prossimi incontri, è sempre peccato mortale unirsi sessualmente come marito e moglie prima del matrimonio, quando lo si fa all'interno di una libera convivenza, questo lo si fa sotto gli occhi di tutti, perché nessuno è così ingenuo o sciocco da pensare che un ragazzo e una ragazza che vanno a vivere insieme lo fanno perché la sera prima di andare a dormire vogliono fare la veglia di preghiera e dire insieme il Santo Rosario. Speriamo, speriamo, nessuno lo mette in dubbio. Ecco, però ci vorrebbe un po' troppa, come dire, ingenuità per pensare come prima, come dire, opportunità un'ipotesi, un'eventualità del genere. Quindi di fatto viene pubblicamente ostentato il peccato, perché non fornicare, l'abbiamo già visto nella rassegna biblica, è tuttora oggi un peccato gravissimo. Mi sembra, non so se l'ho detto, poi comunque lo riprenderemo. Io l'ho letto con gli occhi miei queste cose, basta semplicemente andarsi a informare e prendere i testi adatti. È che nel primo millennio, se tu avevi una fornicazione semplice, prematrimoniale, una, non 100.000, ti beccavi come penitenza 7 anni di digiuno a pane e acqua. Io l'ho letta con gli occhi miei questa cosa quando studiavo il sacramento della penitenza e la storia del sacramento della penitenza. Non è che oggi le cose sono cambiate. Fatto, d'accordo, il sesto comandamento è rimasto sempre lo stesso. Quindi praticamente con la convivenza si fanno, guardate, tre peccati gravi. Uno è un oltraggio al sacramento del matrimonio, in quanto si comincia a vivere come marito e moglie senza la benedizione di Dio. E questo lo si fa anche nel caso del matrimonio in comune. Secondo, si commette un pubblico scandalo perché ci si unisce come dire, come marito e moglie sotto gli occhi di tutti, quindi dando a questo il crisma della visibilità, e questo vale anche per i matrimoni al comune. Terza cosa, che è nella convivenza, ma non è nel matrimonio al comune, si compie un gesto fortemente irresponsabile, perché la motivazione per cui molte persone scelgono di andare a convivere è di fare la prova. Devo vedere se le cose vanno e poi eventualmente ci sposiamo. Questo con gravissime conseguenze nei confronti, primo, dei figli, perché se nasce qualche figlio di una convivenza, tuttora oggi nella legge non viene presunto che sia figlio anche del padre, ma il padre deve riconoscerlo. E se il padre non lo riconosce, sono soltanto una serie di problemi grossi, oltre, come dire, ad un'estrema labilità. Io sentii una volta una storia allucinante di una persona, insomma, che aveva inguaiato una giovanotta, capite in che senso l'aveva inguaiata, e dinanzi a qualcuno che osava dirgli, dico, ma scusa, ma lo capisci che questa è una giovanotta, una ragazzina che hai fatto qua, e poi che futuro c'avete? Dice, ma guardi che non ci sono problemi, ma questa è una cosa che è già successa con altre giovanotte, c'ho un paio di figli sparsi in giro per l'Italia, ma io a ciascuno di questi mando 200 euro al mese. E con questo erano risolti i problemi, secondo, perdonatemi l'ironia, questo grande scienziato che a quanto so ha detto questa cosa. Quindi un'estrema irresponsabilità, perché è un legame completamente labile che può essere interrotto in qualunque momento senza nessuna possibilità di difesa. Cioè, se ci sta un matrimonio, se il marito si impazzisce e trova una signorina più giovane della moglie e si imbaghisce e gli vengono le idee strane. Vabbè, ammesso e non concesso che le assecondi, quantomeno deve dare mantenimento alla moglie, che non si muore di fame. Quantomeno, se la casa è intestata al marito e la moglie starebbe per strada, è tutto da dimostrare che il marito si tiene la casa, eccetera, eccetera. Se non è che queste cose terra terra da un punto di vista legale, è che almeno nel matrimonio civile ci sono, almeno queste ci sono. Nella convivenza non c'è neanche questa. Quindi pensate, è triplicemente grave una cosa di questo genere. E oggi fanno proprio ridere, perdonatemi di nuovo l'ironia, quelli che vogliono la disciplina giuridica delle unioni civili. La disciplina giuridica delle unioni civili, specialmente eterosessuali, è per definizione una contraddizione in termini, perché se tu vai a convivere è proprio perché non vuoi nessun tipo di disciplina giuridica, perché se non ci credi vai a sposare al comune. D'accordo? Delle altre unioni ne abbiamo parlato nella puntata precedente, non voglio riprendere questo argomento perché non mi va di inquietarmi interiormente quando parlo di alcune cose. Quindi la procedura canonica, tuttavia, di regolarizzazione di un'eventuale situazione irregolare di questo genere è più severa nel caso di matrimonio al comune che non nel caso della libera convivenza, per un motivo. Ecco. Perché senza dubbio il matrimonio al comune è una scelta che è meno irresponsabile, però è anche una scelta formalmente più impegnativa, cioè io ho proprio volontariamente deciso di dare una configurazione giuridica e stabile al mio matrimonio al di fuori del sacramento, quando per ogni battezzato, noi sappiamo, non esiste altra forma di unione con la moglie che non il sacramento del matrimonio, questo per un motivo molto semplice. Che se il nostro Signore lo ha istituito, ci sono dei motivi molto gravi. Il nostro Signore, a differenza di noi, non fa cose inutili. Per cui, se non vuole che si cominci a vivere come marito e moglie senza un sacramento, segno è che noi abbiamo bisogno di questo sacramento per poter vivere la santificazione di coppia all'interno del matrimonio. E questo disprezzarlo con gesto formale, quindi non soltanto de facto, come avviene in una convivenza, ma de iure, come avviene in un matrimonio sacramento, richiede, questa è la disciplina canonica che noi parroci conosciamo bene, se una coppia sposata al comune viene a chiedersi di sposarsi in chiesa, c'è bisogno di istruire una pratica dove i coniugi civili stessi devono dichiarare che sono pentiti, spiegare perché hanno fatto quella cosa, spiegare perché vogliono rimettersi in linea con la legge di Dio. Ci deve essere un'autorizzazione in questo senso esplicita dell'ordinario diocesano, cioè del vescovo, che deve autorizzare espressamente la celebrazione di queste nozze. Io vi posso dire, insomma, essendo un parroco in cura d'anime, che quando capitano queste situazioni le coppie ti guardano con due occhi sgranati così, a dire e tocca fare tutta sta commedia per andare a sposa in chiesa, a saperlo non ce ne veniamo proprio, perché non si rendono minimamente conto di questo fatto. Cioè, la cosa grave, ragazzi e ragazze carissimi, che si constata in questi brutti tempi e in questo brutto mondo, non è che ci sono i peccati. I peccati nel mondo, purtroppo, ci sono sempre stati. Ma che oggi si commette il peccato con estrema leggerezza e senza alcuna coscienza di peccare. Anzi, anzi, anzi. Addirittura in alcuni casi si vorrebbe che al peccato fosse opposta una sorta di riconoscimento, nel senso che non c'è niente di male, va bene, non la stiamo a fare troppo grave, non stiamo a fare la fine del mondo, non stiamo a fare le tragedie greche. Che sarà mai? Mica ho ammazzato qualcuno. Questa è la cosa grave. Cioè, questa è stata un'operazione, un gigantesco, non lo so, lavaggio del cervello che sicuramente ha in qualcuno più grande dell'uomo, il regista, il regista, lo sceneggiatore, il raccoglitore del casting, eccetera, eccetera. Però purtroppo ha avuto come attori noi, noi. Noi. Sicuramente alcuni in veste di attori protagonisti che hanno fatto un pochettino da trascinatori, insomma, del carro verso il basso a cui sono scesi questi anni, con tutta una serie di sciocchezze e di circolazioni, insomma, di grosse stupidaggini che purtroppo hanno prodotto i frutti che hanno prodotto. E adesso diventa davvero difficile tornare in qualche modo indietro. Quindi spero di essere riuscito a delineare la fattispecie di gravità di queste altre due forme di fatto di oltraggio al sacramento del matrimonio, che sono appunto le libere convivenze e l'unione soltanto civile. A questo punto però bisogna aprire delle parentesi provocatorie. Mi dispiace ragazzi, voi dovete perdonarmi che ogni tanto le sparo un po', però mi pare che proprio sul settimanale di Padre Pio recentemente o meno recentemente ho letto una frase storica di non mi ricordo chi, ma molto significativa, che dice così: il male si diffonde anche grazie a coloro che non vi si oppongono. Cioè, c'è una sorta oggi di connivenza generalizzata, di quasi rassegnazione, che coinvolge tutti a tutti i livelli. Adesso farò degli esempi molto concreti, molto concreti. Li faccio anche dal pulpito, li faccio anche in chiesa. E non mi importa se a qualcuno possano sembrare delle cose chissà che o chissà che cosa, per quanto mi riguarda sono assolutamente ovvie. Allora, c'è l'aborto in Italia? Io non ci posso fare niente come libero cittadino, però posso andare per esempio alla Marcia per la Vita. Io quando sono partecipato alla Marcia per la Vita quest'anno e l'anno scorso, lo so benissimo che non è che siccome partecipiamo a una marcia per la vita in Parlamento qualcuno abrogherà la legge 194. Lo so, ma faccio quello che posso per dire no e per oppormi. C'è stato un noto cantautore italiano, un rocker dalla vita spericolata, che quando io ero giovane, ammaliato, dal fascino delle sue persuasive canzoni, cantava. Io avevo l'età di molti degli ascoltatori, che spero che ci siano, circa 16-17 anni. C'è chi dice no, lui lo diceva in un altro, ovviamente, contesto, come contesto di provocazione e di ribellione, fenomeno tipico del mondo rock, come ricorderete, abbiamo visto in altre puntate, sempre su questa stessa radio. E quindi come forma di trasgressione ai valori dominanti, alla cultura dominante, alla religione, eccetera, eccetera, no? Quindi c'è chi dice no, io non ci credo, quindi non ci credo a cosa? Non ci credo a tutte le scemenze, secondo questo cantautore, che dicono i preti, che dice la Chiesa, a Dio, a queste cose. Io credo soltanto a quello che vedo e a quello che tocco. Però il principe, sto facendo dell'ironia per dire, qui qualcuno deve dire no. Adesso ci sono tanti no da dire, cioè adesso i veri trasgressivi, per questo che i papi tutti, Benedetto XVI, Francesco, Nicola, chiunque ci stia, stanno sempre a dire ai giovani: abbiate il coraggio di andare controcorrente. Cioè ci stanno incitando alla trasgressione, cioè i veri trasgressivi oggi siamo noi. Siamo noi. Se una signorina oggi va vestita come Dio comanda, è la più grande trasgressiva del mondo. perché si tira dietro una montagna di fango. Non vi dico alcune brave figliole che qui dentro in chiesa, da queste parti, per loro libera e spontanea volontà, come ho detto anche pubblicamente domenica, nessuno le ha mai obbligate. Usano il velo. Guarda, se avessero, che vi posso dire, se avessero, non so, camminato a testa in su, in sotto e a zampe all'aria, dicono a Roma, ci sarebbe stato meno risonanza, meno boato, cioè oggi le cose che un tempo erano assolutamente normali sono diventate chissà che o chissà che cosa. A me ogni tanto mi arrivano in giro, perdonatemi se vi riscontri, Don Leonardo, grazie per le cose che. Ma io sinceramente ve lo dico con tutto il cuore in mano, non mi sento di dire chissà che o chissà che. Mi sento di dire delle cose normalissime. Normalissime. Cioè, questo è l'ABC. Stiamo facendo i 10 comandamenti, non stiamo facendo le beatitudini, ho già detto la volta scorsa. Questo è l'ABC della vita cristiana. Cose che i nostri padri, i nostri nonni, ma non c'era manco bisogno di fargliele, le sapevano punto e basta. Cioè, erano dati di fatto acquisiti. Oggi io vi parlo da prete, tu non puoi dare per acquisito nemmeno che uno sa che la mattina quando si sveglia deve passare il segno della croce. Perché non lo sanno. Neanche questo da prete puoi dare per scontato. Allora, quali sono le provocazioni? Allora, io vi dico una cosa, ragazzi carissimi. Spero che i vostri genitori non rientrino nelle parole che sto che dicendo. Io constato, giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, mese dopo mese, anno dopo anno, esperienza pastorale dopo esperienza pastorale, la drammatica verità e portata devastante, ma proprio devastante, e insisto a dire devastante, della terribile. Una delle più terribili, secondo me, profezia di Padre Pio, poco prima di morire, che è questa: verranno generazioni di genitori incapaci di educare i loro figli. Non vorrei essere nei panni dei vostri nipoti. Che c'entra questo discorso? Allora, vi faccio subito un esempio. Io adesso ho 42 anni, avrei potuto tranquillamente avere un figlio, beh, di 18 anni? Ma come perché no? Di 19 anni, di 20 anni forse, se mi fossi sposato a 20, 22 anni. Supponiamo che questo figlio di 20 anni viene da me, c'ha 20 anni, quindi è maggiorenne, io non posso mica impedirgli di disporre della sua vita come meglio crede. Anche se l'ho educato bene, mi auguro che non faccia scelte che siano all'opposto di ciò che gli ho insegnato. Però supponiamo che questo figlio è uscito scapestrato e viene a dirmi: papà, io vado a convivere con la mia fidanzata. Io e la mia cara mogliettina, che cosa facciamo dinanzi a questo? Cosa facciamo? Diciamo: ma no, guarda, mi dispiace tanto, sarebbe meglio di no. Tu lo sai che noi crediamo, che noi non crediamo in queste cose. Vabbè, però se proprio vuoi fare così, se sei contento tu, pazienza. E quindi questi vanno a convivere, io li aiuto magari anche a arredarsi la casa, li aiuto a comprare i mobili e dopodiché li tratto come se fossero marito e moglie normalmente, e come se niente fosse. Quindi vado a pranzo tranquillamente a casa loro, loro vengono tranquillamente a pranzo a casa mia, come se niente fosse. Si fa così secondo voi? Io ho qualche dubbio, ragazzi, perché recentemente, mo non sto rileggendo una biografia del santo curato d'Ars, il grande santo curato d'Ars, che è patrono dei parroci, no? Quindi che ci aiuta anche un po' a noi poveri disgraziati che siamo i parroci di oggi, che sarebbe molto bene ritirarsi in monastero a vita privata per avere il fegato un po' meno grosso, che si sgolava nel dire con parole di fuoco ai genitori che davanti a Dio avrebbero risposto di tutti i peccati dei figli a cui non si erano opposti. E lui fa anche degli esempi, eh? Se un genitore, secondo il santo curato d'Ars, permette che la figlia, attenti, vada a vedere un ballo, prendete la biografia Il santo curato d'Ars, del Trochu, che è la più attendibile di tutto, e leggete queste cose, se non mi credete. Quindi va a vedere un ballo. I genitori ne risponderanno severamente davanti a Dio. Quindi, io vi lascio la provocazione. Un padre e una madre cosa devono fare dinanzi a un figlio a fare una cosa di questo genere? Io un'idea me la sono fatta. L'idea è questa qui. Io quello che tu fai non lo condivido e non lo benedico. Tu c'hai 20 anni, la vita è la tua. Ma vuoi la casa per la tua convivente? Te la paghi. Vuoi i mobili? Te li paghi. Io non ci metto un dito, non muovo uno spillo, non muovo una cosa e per quanto mi riguarda voi siete due fidanzati. Quindi io dentro quella casa piede non ce lo metto, ma non per motivazioni moralistiche, chi lo sa che succede, perché sarebbe una sorta di approvazione mia di padre a quello che tu stai facendo, che io non la posso fare. Quindi tu sei libero di scegliere questo, ma scegliendo questo vuol dire che tu scegli di modulare i rapporti con me sulla base di questa difficoltà e tensione che tu hai voluto, non io, perché io mi regolo di sponde di conseguenza. Perché nonostante che tu sia grande, io continuo a essere tuo padre e io devo insegnarti che ciò che offende Dio non lo sottoscrivo. Paura che ce ne 40 o 50 di anni, io quello non lo sottoscrivo. Casa mia è sempre aperta perché tu sei mio figlio. Ma gentilmente entri tu, non con la tua compagna. Quando sarete felicemente sposati in chiesa, io sarò il primo a farvi il regalo più grande che esiste e a dimenticare tutte queste cose. Sono le 17, sento suonare la campana della mia parrocchietta, facciamo una piccola pausa, per recitare insieme l'Ave Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Maria? Ave Maria. Sì, mio padre, avevo una domanda da un ascoltatore nostro. Sì. Tuo padre si è divorziato e poi risposato Sì. di una signora ortodossa, anche lei è separato, divorziato. Sì. E com'è la sua situazione davanti a Dio? Com'è la situazione? L'ho detto la volta scorsa. La situazione davanti a Dio è una situazione di peccato grave. Quindi, perché non ci si può, se era sposato in chiesa, non si può né divorziare né convolare a nuove nozze. Quindi questa è una situazione oggettivamente, da un punto di vista oggettivo, gravemente disordinato. Di questo peccato devono pentirsi entrambi. Dopodiché, se non hanno figli piccoli, sono tenuti a interrompere la coabitazione se vogliono rimettersi in grazia di Dio, specialmente la parte cattolica. Se invece hanno figli piccoli, che quindi non consentono l'interruzione della coabitazione, onde non creare danni ulteriori a quei poveri innocenti che non c'entrano niente, come dice il beato Giovanni Paolo II nella Familiaris Consortio, l'ho detto la volta scorsa, come non ho sentito la puntata della volta precedente, devono fare voto di castità, quindi devono astenersi dalla vita sessuale, dormire in camere separate, confessarsi e poi, facendo vita casta in questo modo, possono comunicarsi in parrocchie, in chiese dove non siano conosciuti come coppia, onde non creare scandalo. Tra chi magari vede che si vanno a fare la comunione due persone che sanno essere divorziate e risposate. Questa è la situazione. Ok, se non ci sono altre domande, madre, procedo e andiamo avanti. Un discorso non dissimile, altra provocazione, va fatta. Dice, no, mio figlio non decide di andare a convivere, organizza un bel matrimonio al comune. Cosa facciamo, cara mogliettina mia? Io direi a mia moglie, ci dobbiamo andare al matrimonio di nostro figlio al comune? Dobbiamo andare davanti al sindaco a vedere nostro figlio che disprezzando il sacramento del matrimonio chiede la benedizione delle sue nozze a un uomo come noi? Io vorrei tanto che ci fosse la possibilità che tutti gli ascoltatori rispondessero e interloquissero. Io dico che una cosa di questo genere sarebbe completamente assurda. Non è che non mi renda conto, cioè, una coppia di genitori che sia posta in questa situazione deve fare una scelta drammatica, grave, dolorosa, impegnativa, lacerante per certi aspetti. Ma è necessaria. È necessaria perché bisogna dare un gesto di dissenso forte. Cioè, le chiacchiere oggi più che mai contano fino a un certo punto. È ovvio che ordinariamente le cose vanno comunicate, vanno quindi dette con le parole, e tra l'altro con parole dolci, gentili, pacate, miti e caritatevoli. Questo è lo stile ordinario. Però, quando si hanno dei compiti e delle responsabilità educative, alle parole dolci, buone, pacate e caritatevoli devono necessariamente, se le circostanze lo richiedono, seguire dei comportamenti conseguenti. Questo vale per i genitori, questo vale per tutti. Cioè, io che sono un sacerdote, per quanto mi riguarda, il mio desiderio più grande sarebbe quando entro in confessionale venissero tutti quanti penitenti, tutti quanti pentiti, e che io potessi dare come dire, amministrare la soluzione con gioia e dare l'abbraccio di Dio Padre a tutti, sempre. Diciamo, questo così va nel 90-95% dei casi, ma quelle rare volte in cui è palese che è impossibile assolvere una persona, io non posso assolverla. Mi dispiace, d'accordo? Mi dispiace tanto, so di provocare un dolore in quella persona da un punto di vista umano, ma non posso fare altrimenti, perché allora la bontà si trasformerebbe in buonismo e la carità sarebbe falsa perché aliena dalla verità. Ci vuole sempre una grande misura, ragazzi e ragazze carissime, ci vuole sempre un limite. Quindi la carità sempre, fino a quando non viene posta in causa la verità. Perché la carità deve essere sempre nella verità e per la verità, mai contro la verità. Come diceva sempre il buon Padre Pio da Pietrelcina, il primo servizio della carità è dire la verità. Con carità. Quindi, che facciamo? Ecco, io ritengo, e che la stessa cosa vale, attenzione, attenzione, attenzione, ho parlato dei genitori. Ecco, queste sono scelte gravi, però dobbiamo ricordare tutto il Vangelo, eh? Cosa dice Gesù nel Vangelo? Chi ama il figlio o la figlia più di me, non è degno di me. Vangelo di Matteo, capitolo 10, versetto 37. Nel Vangelo di San Luca viene usata un'interpretazione semitica, iperbolica: chi viene a me non odia suo padre, sua madre, la moglie, i figli, i campi e perfino la propria vita, non può essere mio discepolo. Cosa significano queste cose? Nella nuova traduzione della CEI, se non ricordo male, a odia è stato sostituito che uno viene a me e ama più di me la moglie, il figlio, che sarebbe poi la decodificazione corretta, no? Grande l'amore verso i figli? Certo, ma più grande l'amore verso Dio e quindi più grande l'amore verso l'anima di tuo figlio. Perché tu facendo queste cose, come dire, crei delle tensioni da un punto di vista affettivo, emotivo, indubbie, delle situazioni di sofferenza anche molto grandi. Ma tu ami l'anima di tuo figlio, perché tu stai cooperando con la grazia a che lui riconosca il male di quello che sta facendo e si pente e si converta. E questo il Signore credo che lo chieda a un genitore. Chi ama il figlio o la figlia più di me non è degno di me. Prima dell'amore per il figlio o per la figlia, viene l'amore di Dio. Questo è il Vangelo, non lo dice Don Leonardo, eh? Vi ho sempre detto che Don Leonardo è il pappagallo di corte. ripete cose imparate da chi è più grande di lui, cioè tutti, perché essere più grande di me ci vuole ben poco. E veniamo adesso ai pastori, perché la gente non è mica stupida, eh. Noi preti a volte siamo così ingenui da pensarsi che la gente è stupida. No? La gente capisce benissimo tutto, altro che stupida. Ma allora, tutto c'è, cioè due conviventi che chiedono di sposarsi. Benissimo, rallegriamoci ed esultiamo. D'accordo? Perché c'è una situazione regolarizzata o che si sta per regolarizzare, un peccato in meno, uno scandalo tolto. Bene, a quale prezzo però? Cioè tu hai convissuto, supponiamo che tu si, facciamo due casi, conviventi con figli e conviventi senza figli. Supponiamo conviventi senza figli. Tu vuoi sposarti in chiesa? Sì. Ora, convivendo, tu hai ingenerato con la tua condotta un pubblico scandalo. D'accordo? Perché la convivenza, l'abbiamo visto, è un peccato pubblico. Allora, per quanto mi riguarda, sarebbe molto opportuno, per non dire doveroso, che se i figli non ci sono, tu prima della convivenza, anche come gesto, soprattutto nei confronti dei vicini, quindi verso i genitori, del promesso sposo, della promessa sposa, verso i parenti, gli zii e i cugini, si torna ognuno a casa propria. Ovviamente si torna a casa propria con annessa promessa di castità fino alla prima notte di nozze. Perché io penso che il Signore ci chiede, dopo che abbiamo sbagliato, di fare qualche piccolo gesto di conversione e di penitenza, o no? Cosa facciamo? Vogliamo mantenere la convivenza fino al giorno stesso del matrimonio? E magari la notte prima di nozze festeggiare come si dovrebbe festeggiare la notte stessa di nozze? Così si sa manco se uno si può confessare il giorno prima, perché è capace che poi la notte prima del matrimonio abbiamo fatto un altro peccato mortale? Così come se niente fosse? Supponiamo che questa coppia abbia fatto un figlio. Fortuna che dalle nostre parti il vescovo, che adesso purtroppo è stato promosso e quindi trasferito, ha fatto un decreto. Perché adesso era invalsa la moda di fare un figlio prima allora, facciamo intanto un figlio, poi ci sposiamo e così facciamo tutto insieme, matrimonio e battesimo. Allora, guardate che belle scenette. Matrimonio con abito bianco. Pensate che io le dico queste cose, dopo a un certo punto sull'abito bianco non mi metto a fare le guerre puniche, perché dico, se vuoi fare ridere tutto quanto il mondo, fai pure ridere tutto quanto il mondo, perché poi il mondo ride, perché loro non si rendono conto. Ma prima fanno tutti quanti le faccettine moderne, d'accordo, che loro tanto le capiscono queste cose, non è la fine del mondo, la convivenza, eccetera, rallegriamoci e basta. Poi però, quando vedono la convivente con l'abito bianco, lo so io cosa dicono, anche a me. Hai visto quella con l'abito bianco? Non si vergogna per niente, l'ha fatta cantare Carla in Francia, fu pure a sposarsi con l'abito bianco. L'abito bianco se lo mette chi è degno, perché l'abito bianco significa qualcosa. Guardate che c'è qualcuno che dice questo, anche da queste parti, che non è proprio. Qualcuno potrebbe dire, ah, queste cose da Sud Italia e Sud Italia, anche in maniera un pochino dispregiativa. Io sono molto amico di tutte quante le persone del Sud Italia, d'accordo? E non mi piacciono affatto queste cose, ma comunque non sono da Sud Italia, perché sono da Centro Italia. Ecco, perché sono successe da queste parti. Poi l'abito bianco possibilmente scollato, scollacciato o meglio ancora con il toppino, pensate che bella contraddizione in termini, no? L'abito bianco con il taglio diciamo così, da donna di facili costumi, dentro la chiesa poi. Poi con un bel battesimo, facciamo prima il matrimonio e poi il battesimo e poi facciamo l'applauso. Che ci ha voluto Benedetto XVI per ricordare alla gente che la Chiesa non è uno stadio, cosa che oggi è così difficile capirlo, e quindi che gli applausi in Chiesa sono proibiti. Ci ha voluto Benedetto XVI per dire questa ovvia cosa. Poi gli facciamo l'applauso, d'accordo? E possibilmente comincia a battere le mani il sacerdote che ha celebrato il matrimonio e il battesimo. Bravi! Complimenti! Io adesso sto ironizzando, spero che voi ascoltatori mi capiate, no? Nessuno vuole mettere alla gogna o peccare senza misericordia verso queste situazioni, no? Ho già premesso che molte volte si commettono dei peccati gravissimi senza la minima consapevolezza, perché stiamo vivendo in una società corrotta, in un mondo depravato. Però alla doverosa misericordia e bontà ci deve anche essere un minimo di riguardo per la verità. Cioè, facciamo un matrimonio con tutti quanti i crismi, con tutti quanti i riti, con tutte quante le cose, però è un matrimonio fatto da persone che per anni hanno calpestato la legge di Dio. E questo non può essere completamente ignorato. O addirittura andare a prendere in giro il Padre Eterno, che non fa il battesimo al figlio. Il battesimo al figlio glielo fai prima del matrimonio, il figlio non bisogna battezzarlo quando ora che piglia moglie. Hai fatto un figlio, 10 giorni dopo lo battezzi e poi ti sposerai. E non serve sta a fa troppe feste. Dice, ma così faccio una festa unica, la fai unica lo stesso. Mia madre a me mi ha battezzato a 5 giorni e ha fatto la festa del battesimo quando ho compiuto un anno dopo. Quindi non vedo quale sia l'urgenza di feste o di cose di questo. E se la coppia c'ha figli? E se la coppia ha figli, certamente non è possibile una riparazione pubblica dello scandalo, interrompendo la convivenza. È lo stesso discorso dei divorziati e dei sposati che stavo facendo prima. Però è possibile la penitenza privata, perché comunque 2 mesi prima tutte marito e moglie vanno ognuno nella camera propria e fanno 2 mesi minimo di astinenza. Ricordiamo tutte quante le catechesi fatte a suo tempo, adesso sto scrivendo gli articoli sul Tribunale di Padre Pio, sul sacramento della confessione, Dio li perdona tutti i peccati, ma Dio vuole il pentimento, vuole il pentimento e vuole la penitenza. Tu non puoi peccare fino alla notte prima di nozze e dalla notte dopo di nozze ricominci a fare come prima, come se non ci fosse nessun problema. Almeno un piccolo segno, almeno, ma sto dicendo il minimo questo qui è. Per grazia di Dio il nostro vescovo con decreto ha proibito di celebrare il sacramento del battesimo con la celebrazione del matrimonio di 2 persone conviventi o sposate al comune. E grazie a Dio non è l'unica diocesi in cui questo provvedimento viene preso. La gente capisce benissimo, non è che non capisce benissimo. Perché se vede che, scusate, una coppia va in giro, convive, io vado a convivere, mio padre con dinanzi alla mia famiglia non succede niente, perché mio padre e mia madre mi trattano come se fossimo una famiglia, dinanzi ai parenti non succede niente, dinanzi agli amici non succede niente, manco dinanzi al prete succede niente, perché vado a chiedere di sposare, evviva, che bello, facciamo tutto insieme con il battesimo, ah, magari poi c'è l'ultima moda, qualcuno è solo riuscito a tamponarlo, a dirglielo prima del tempo, che se hanno invece i figli di 4-5 anni si fanno portare le fedi nuziali dai figli. Bello, no? Che bella cosa! I figli che portano le fedi nuziali ai genitori, commovente, no? Strappalacrime. Applauso subito dopo, no? Sta di fatto che nei matrimoni con tutti quanti i crismi di cui forse si può presumere che ci sia la benedizione di Dio, sono stati casti prima del matrimonio e i figli non dovrebbero essere presenti al matrimonio dei genitori perché dovrebbero nascere dopo e almeno 9 mesi dopo il matrimonio, non 6 mesi dopo. Noi non è possibile che in nome di un malinteso concetto di carità ci mettiamo sotto i piedi la verità e il Vangelo. Questo non è possibile. Questo. Non è stato possibile mai e non sarà possibile mai. C'è un proverbio popolare, ragazzi, no, che dice così, lo ricordate? Chi tace acconsente. Ecco, qui sia non pochi fedeli che forse anche qualche pastore farebbe bene ogni tanto a ricordarseli. A ricordare questa cosa. Ecco, quindi abbiamo con questo focalizzato le prime tre gravi forme di peccato impuro, che sono anche quelli che colpiscono la santità del matrimonio come sacramento. Ce n'è un'ultima categoria di comportamenti che sono direttamente offensivi e contrari alla santità del matrimonio, che sono i rapporti prematrimoniali. Altro tema ormai oggi è considerato completamente fuori del mondo. Ma fuori del mondo non è, perché per rapporti prematrimoniali si intendono non soltanto il peccato di fornicazione, cioè il compimento dell'atto sessuale in senso stretto dell'atto coniugale e basta. Qui bisogna fare attenzione perché molti ragazzi, anche di mia conoscenza, in buona coscienza, pensano, dice, come state vivendo il fidanzamento? Stiamo vivendo nella castità. Vuol dire che si astengono dal compiere gli atti coniugali, ma non vivono la castità, perché trovano delle forme, come dire, alternative di contatto intimo e di ricerca del piacere sessuale, che sono parimenti illeciti. Sono leggermente meno gravi, ovviamente, ma sono comunque, in quanto peccati contro il sesto comandamento, gravi, e quindi, se commessi con piena avvertenza e deliberato consenso, peccati mortali. Allora, quindi, con rapporti prematrimoniali non si intende soltanto il peccato di fornicazione, ma tutti quei contatti a carattere precipuamente sessuale che si intrattengono nel tempo precedente il matrimonio, con una gradazione di intensità che, ripeto, ferma restante la materia grave comune a tutti, parte dal cosiddetto bacio profondo, o qualcuno lo preferisce chiamare colombino, arrivando fino al peccato di fornicazione in senso stretto con tutte le tappe intermedie. D'accordo, qui anche il linguaggio, voi mi perdonerete che deve essere sobrio, però penso che ci riusciamo a capire. Fornicazione in senso stretto, in cui si intende la vera e propria congiunzione carnale, come del resto dice l'enciclopedia Treccani, al di fuori del matrimonio. Ora, noi oggi viviamo in una cultura che può essere definita ed è stata definita, oltre che permissivista, letteralmente pansessualista e libertina, cioè pansessualista vuol dire che vede il sesso dappertutto. E libertina vuol dire che fa del piacere sessuale, della libertà sessuale, il cavallo di battaglia e il distintivo di una persona che voglia essere felice e realizzata. Non senza, sotto questo punto di vista, subire, pur a diversi anni di distanza, nonostante a livello scientifico siano ampiamente superate alcune formulazioni, stiamo risentendo del pensiero e della dottrina di un certo Sigmund Freud, che riduceva e riconduceva tutte le forme di frustrazione e di conflitto della persona umana a fenomeni di frustrazione sessuale conscia o inconscia. Siamo perfettamente dentro questa logica, eh? Quindi alcune indicazioni della morale cattolica ad un osservatore poco formato, diciamo così, potrebbero sembrare rigide, eccessive o anacronistiche, ma così non è. Scusate. Allora, cos'è il fidanzamento nel progetto di Dio? Il fidanzamento è un tempo in cui si deve operare un duplice discernimento da parte dei fidanzati. Ed è il seguente. Il primo è una verifica vocazionale, perché il matrimonio è una vocazione ben precisa. Alcune persone, se sono sposate, avrebbero fatto meglio di rimanersene per conto proprio. Perché la vita matrimoniale richiede, come tutte le vocazioni all'amore, un ampio tasso di disponibilità al sacrificio. Tra l'altro molto costoso, perché si sta sempre a fianco alla stessa persona, che è una persona inevitabilmente limitata. Prima dicevo, la convivenza è un assurdo pazzesco, perché è inutile che fai il matrimonio, che fai la prova, perché non ti troverai bene con nessuno. Cioè, se tu ti pensi, dobbiamo vedere se andiamo d'accordo o non andiamo d'accordo. D'accordo non ci si va se non si impara ad amarsi nella dimensione del Vangelo, perché le persone sono diverse l'una dall'altra. E non esiste di Immacolata Concezione di Gesù Cristo, figlio di Dio incarnato, ce n'è un maschio e una femmina e basta. Tutto il resto sono figli di Adamo e di Eva, maschio e femmina. Quindi sono gente che, per quanto si sforzi, è imperfetta, è piena di difetti. Ci stanno delle volte che la prenderesti, la sbatteresti al muro, dicono a Roma. Ecco. Quindi è inutile che fai la prova, perché tanto la convivenza ideale non la troverai mai. Non è questa la cosa basilare del matrimonio. Io devo vedere, uno, se ho una vocazione autentica. Che cos'è il matrimonio? È una forma di amore particolare, donazione totale ed esclusiva ad una creatura a cui dedicare la mia vita perché sia felice, offrendogliela, e con cui, se Dio vuole, cooperare con Lui nel grande compito della procreazione. Questa è la vocazione al matrimonio. Secondo, quindi, allora, c'ho questa vocazione al matrimonio, è come quando uno entra in seminario, cioè il fidanzamento è per gli sposi come il seminario o il noviziato, è come il seminario per un prete, come il noviziato e comunque il tempo di formazione fino alla professione solenne è per un religioso. Ora io certamente che posso sentire una certa inclinazione prima, non è che mi vado a fidanzare se penso che voglio fare il prete, sarei un pazzo, sarei. Se penso che voglio fare il prete entro al seminario. Se io sento, mi sento inclinato verso questo, cercherò una persona che mi stia a fianco. Benissimo, una volta che l'ho trovata, dal di dentro, adesso a prescindere dal secondo punto, verificherò se questa è la mia strada, oppure no. Uno. E ce n'ho per fare, perché comunque comincio ad avere una frequentazione, una conoscenza, uno stare molto tempo insieme, anche se non dalla 24 su 24, sono sotto lo stesso tetto, che mi permette anche di conoscere l'universo femminile, come mi trovo, ecco, come mi sento, se questo mi sembra di essere ciò per cui sono disposto a spendere la vita, eccetera. Questo posso mica dare per un conto sono i sogni che noi facciamo, un conto è la realtà concreta in cui ci troviamo a vivere. Quindi primo punto. Secondo punto, mettiamo arrivando alla fine, io devo vedere se la persona concreta con cui sto aprendo questo discorso è quella che Dio mi ha messo davanti, cioè è la persona con cui Dio vuole che io formi una famiglia. Quindi, a prescindere dal fatto che sicuramente mi sta simpatica, provo un certo interesse, la stimo, e sento, cosa assolutamente normale e in se stessa, come dire, perfettamente benedicibile, diciamo così, da Dio, sono innamorato. Non c'è nessuna, niente di male nell'essere innamorati. Un problema se una persona che è sposata si innamora di una persona che non è sua moglie, ma questo è un altro discorso, d'accordo? Ora, quindi, ci sono questi due punti da definire. Quindi, per definizione, il fidanzamento è caratterizzato da due elementi. Uno, dalla precarietà, perché è certamente un certo impegno che uno si prende, ma un impegno non vincolante. Non ci sono promesse fatte a nessuno. anche se una persona in coscienza deve fare la persona seria, cioè se inizia una relazione non deve farlo così perché non c'è niente da fare. E secondo, non c'è nessuna forma di appartenenza reciproca, cioè la mia fidanzata, io la chiamo la mia fidanzata, ma non è mia, non mi appartiene, proprio per questa, come dire, precarietà intrinseca che è propria del fidanzamento, salvo quando in procinto di matrimonio diventa, come dire, fidanzamento ufficiale con le fedine, non so chi lo fa ancora, allora quello abbiamo deciso, la mano la data del matrimonio, allora possiamo, come dire, cominciare a entrare in un'ottica differente. Prima non c'è proprio, e anche dopo il fidanzamento ufficiale non c'è comunque un'appartenenza totale, anche se c'è una certa appartenenza reciproca, perché cominciano ad essere, a prendersi degli impegni a breve termine. Allora, per questo motivo ci sono due indicazioni date non da me ma dai maestri di spirito. Primo, ordinariamente evitare fidanzamenti precoci. Io suggerisco personalmente, questa è un'idea mia, d'accordo? Un'idea mia sulla scorta di questi insegnamenti, quindi se non volete seguirla non seguitela. Però è una misura prudenziale di non aprire storie impegnative prima dei 18 anni. Che oggi sono pochi, perché oggi si sposa a 30 anni, non è più come una volta. E secondo, evitare, non so, fidanzamenti precoci, ma fidanzamenti eccessivamente lunghi, perché un fidanzamento eccessivamente lungo può porre in serio pericolo la possibilità di perseverare fino alla fine nella castità esigente, che come vedremo la prossima volta, a questo punto è richiesta durante questo periodo. Quindi questi sono due consigli fondamentali. È necessario quindi il raggiungimento di un'età matura in cui si è già fatto un primo screening, d'accordo, circa la prospettiva vocazionale, quindi lo stato di vita da scegliere, e inoltre prima di impegnarsi con una persona, come dire, ad aprire una storia, a dire noi stiamo insieme, prendersi un periodo in cui si ha semplicemente un'amicizia un po' più particolare, ma senza impegno, perché anche gli impegni lievi che poi vanno a finire male possono lasciare delle conseguenze non proprio positive nei cuori delle persone, quindi se si possono evitare è meglio. Quindi prima di aprire una relazione ordinariamente è sempre meglio farla precedere da un tempo di frequentazione un po' più intima, ma senza impegno, siamo amici. Poi se sono rose fioriranno. Io mi fermo, che credo che siamo arrivati al termine dello spazio consentito. Continuiamo, se Dio vuole, la settimana prossima. Vi mando a tutti la mia benedizione, una santa settimana. Ave Maria.